Capitolo 20, 24 settembre. Il mattino dopo mi sono svegliata di ottimo umore, persino felice, direi. La nuvola che incombeva la sera prima su di me, per la paura di quel che avrebbe detto la zia e per il timore di non ottenere la loro approvazione, si è dissipata in una fiducia luminosa e nella gioia di provare un amore ricambiato. La giornata era bellissima e sono quindi uscita in giardino a passeggiare tranquilla, persa nei miei pensieri felici. Il prato era coperto di rugiada e pieno di ragnatele che ondeggiavano al vento. Un petirosso stava mettendo nel canto tutta la sua piccola anima e io sentivo il mio cuore levare silenziosi inni di gratitudine e lode al cielo. Avevo fatto ancora pochi passi quando la mia solitudine fu turbata dall'unica persona che non avrei mai potuto considerare indesiderata. Era Huntington che mi stava venendo incontro. Arrivò così d'improvviso che avrei pensato di essermelo solo immaginato se l'avessi solo visto, e invece ho anche subito sentito la presa decisa del suo braccio attorno alla vita e un caldo bacio sulla guancia. Nelle orecchie un saluto allegro e squillante. La mia Helen! Non sono ancora vostra, risposi cercando di liberarmi dal suo approccio sin troppo confidenziale. Ricordatevi dei miei tutori, non avrete facilmente l'approvazione di mia zia. Vi sarete accorto che ha dei pregiudizi nei vostri confronti. Oh, me ne sono accorto, certo, e voi dovrete aiutarmi a capirne il motivo in modo che possa difendermi, ha detto. Forse mi giudica uno scialacquatore e teme che non abbia mezzi adeguati per provvedere alla mia metà? In questo caso farete bene a dirle che la mia proprietà è quasi del tutto vincolata e non riuscirei a dissiparla tanto facilmente. Certo ho qualche ipoteca, qualche debito, ma niente di notevole. Riconosco di non essere ricco quanto potrei o quanto sono stato, ma ritengo che potremmo vivere agiatamente con quanto mi rimane. Dovete sapere che mio padre era molto avaro e ha dedicato gli ultimi anni della sua vita ad accumulare soldi. Non c'è da stupirsi che suo figlio si diletti a spenderli, dunque. Ma poi ho incontrato voi, Helen, e ho iniziato a coltivare nuove prospettive e più nobili obiettivi. Il solo pensiero di potervi avere accanto e dovermi prendere cura di voi mi convincerebbe a moderarmi e vivere da bravo cristiano, e in più i vostri saggi consigli e la vostra dolce bontà mi renderebbero un uomo virtuoso e prudente. No, non è questo che la preoccupa. È una donna intelligente e non dà eccessivo peso alla ricchezza, ho detto. E cosa allora? Le sta a cuore che io sposi un uomo che sia veramente buono? Ah, oh, un uomo devoto, quindi. Ma sì, perché no? Ebbene, oggi è domenica, giusto? Andrò in chiesa di mattina, pomeriggio e sera. Sarò così pio che vostra zia non potrà che nutrire per me grande ammirazione e un forte amore fraterno. Rientrerò a casa sbuffando come una fornace, arricchito e unto dal sermone del buon signor, come si chiama. Si chiama Layton, ho risposto bruscamente. E il signor Layton è un bravo predicatore, Helen? È un uomo di Dio? È un uomo buono, signor Huntington, e vorrei poter dire la stessa cosa di voi. Oh, dimenticavo che siete santa anche voi. Vi prego di perdonarmi, cara, ma vi prego non chiamatemi signor Huntington. Il mio nome è Arthur. Non vi chiamerò in alcun modo, poiché non avrò certo niente a che fare con voi se vi ostinate a parlare così. Se davvero volete ingannare mia zia, siete cattivo. In caso contrario, beh, non dovreste scherzare su certe cose. Ah. Accolgo il rimprovero, ha detto lui, concludendo la risata con un grave sospiro. Ah, ma cambiamo argomento, ha ripreso dopo una breve pausa, e venitemi più vicina, Helen, prendete il mio braccio, non ho pace a vedervi camminare così. Gli ho obbedito, facendogli presente che saremmo dovuti rientrare in casa al più presto. Nessuno si presenterà a far colazione ancora per un po', mi ha risposto. Voi parlate dei vostri tutori, ma vostro padre non è ancora vivo? Sì, lo è. Ma gli zii sono i miei tutori di fatto, se non di nome. Mio padre mi ha affidata alle loro cure completamente. Non l'ho più visto da quando morì mia madre ed ero una bambina. E la zia, su sua richiesta, si è offerta di prendersi cura di me e mi ha portata a Stanningley, dove vivo da allora. Non credo che mio padre solleverebbe mai obiezioni a qualcosa che la zia ritenesse opportuno per me. Ma potrebbe lui approvare qualcosa su cui voi sollevereste obiezioni? No, non gli importa molto di me. Un uomo da biasimare, senz'altro. Ignora che Angelo sia sua figlia e per me tanto meglio, poiché se lo sapesse non accetterebbe mai di separarsi da un simile tesoro. Signor Huntington, ho aggiunto, immagino sappiate che non sono certo un'ereditiera. A quel punto ha protestato dicendo di non averci mai neppure pensato e mi ha chiesto di non rovinargli il buon umore tirando fuori argomenti così poco importanti. Questa testimonianza di affetto disinteressata mi ha fatto piacere, dato che Annabella Wilmot è l'unica erede di tutte le ricchezze dello zio, oltre a quelle ereditate da suo padre, che già possiede. Ho ribadito la necessità di tornare sui nostri passi, ma abbiamo camminato lentamente e continuando a parlare. Non descriverò qui la nostra conversazione, ma piuttosto quella avvenuta tra la zia e me, poco dopo la colazione, quando Huntington ha preso da parte lo zio, senz'altro, per parlargli della mia proposta, e lei mi ha condotto in un'altra stanza per riprendere il discorso, ribadendomi tutte le sue riserve, senza tuttavia persuadermi che il suo punto di vista fosse più giusto del mio. Sei molto severa, zia, le ho detto. I suoi amici non sono poi tanto terribili come li descrivi tu. Walter Hargrave, fratello di Millicent, se anche solo metà di quel che dice di lui la sorella è vero, è poco meno di un angelo in terra. Non fa che parlarmi di lui tessendo nelle lodi. Ti farai un'idea falsata di un uomo se lo giudichi basandoti su quel che dice di lui sua sorella. I peggiori sono bravissimi a dissimulare le loro colpe davanti alle madri e alle sorelle. E poi Lord Loboraff, che è un uomo per bene. Come sarebbe? Lord Loboraff non è che un disgraziato. Ha sperperato le sue ricchezze al gioco e in altri modi ed è in cerca di un'ereditiera per recuperarne un po'. L'ho riferito alla signorina Wilmot, ma siete fatte tutte nello stesso modo. Mi ha ringraziato dell'interessamento, tuttavia ha detto di essere capace di accorgersi da sola se un uomo la corteggia per denaro oppure no, e in base alla sua esperienza ritiene di potersi fidare del proprio giudizio. Né sembra che le importi che il baronetto non abbia patrimonio, dato che conta sul fatto che il proprio basterà a entrambi. Quanto al suo comportamento sregolato, ha detto che non lo giudica peggiore di altri e che anzi ritiene sia anche rinsavito. Come no? Sono bravissimi a fingere quando c'è in ballo la conquista del cuore di una donna ingenua. Immagino che siano perfetti per stare insieme allora, ho risposto. E in ogni caso, quando il signor Huntington sarà sposato, non avrà poi tante occasioni di frequentare gli altri suoi amici scapoli. Inoltre, se sono davvero così terribili come dici, avrò un motivo in più per volerlo tenere lontano da loro. Allo stesso modo, mi pare di capire, più lui è terribile, più desideri tenerlo lontano da se stesso, non è così? Sì, a meno che non sia incorreggibile, zia. Voglio liberarlo dai suoi errori, aiutarlo a togliersi di dosso lo strato peggiore, nato dall'incontro con chi è peggiore di lui, a risplendere puro nella sua luce migliore. Voglio impegnarmi a sostenere il suo io migliore contro il peggiore, a trasformarsi nell'uomo che già sarebbe stato se non avessi avuto un padre cattivo, egoista e gretto, che lo ha privato della gioia di un'infanzia spensierata per correre dietro alle sue più squallide inclinazioni. E una madre superficiale che lo ha viziato oltre ogni limite, anche coprendolo davanti al marito con menzogne e incoraggiando quelle scintille di follia e debolezza che avrebbe invece dovuto combattere. Per non dire poi della compagnia che tu stessa mi descrivi. Povera vittima, ha esclamato lei sarcastica, quante ne ha patite! Proprio così, ho gridato, ma sua moglie riparerà gli sbagli compiuti da sua madre e non accadrà più niente del genere. Dopo essere rimasta in silenzio, ha detto: Helen, ti ritenevo più saggia e di gusti migliori. Non capisco come tu possa amare un uomo del genere e che piacere ti offra stare in sua compagnia. Quale unione ci può essere tra la luce e le tenebre, o tra un fedele e un infedele? Non è affatto un infedele, zia. Io non sono luce, poi, e lui non è buio. Il suo unico difetto è la leggerezza. Un difetto, ha aggiunto la zia, capace di provocare ogni genere di errore. Pur non essendo di alcuna giustificazione per noi davanti al giudizio divino. Non mi pare che il tuo signor Huntington sia privo di senno. Il divino lo ha dotato di giudizio e di coscienza come tutti noi, e la parola divina gli è stata rivelata tanto quanto agli altri, ma se non l'ascoltano, neanche se uno risuscitasse dai morti, saranno persuasi. E ricorda, Helen, Tornino gli empi negli inferi, tutti i popoli che dimenticano Dio. Anche ammettendo che continuiate ad amarvi e che viviate felici, come farete quando alla fine sarete separati per l'eternità? Tu ascesa all'alto dei cieli e lui nello stagno di fuoco e zolfo nei secoli dei secoli. No, non nei secoli dei secoli, ma solo finché non avrà pagato, fino all'ultimo spicciolo. Infatti, se l'opera di un uomo finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia, egli si salverà, però, come attraverso il fuoco. E chi saprà sottomettere a sé tutte le cose e salverà tutti gli uomini nella pienezza dei tempi, ricapitolando in Cristo tutte le cose, quel Gesù che ha provato la morte a vantaggio di tutti, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose che stavano sulla terra e quelle nei cieli. Ci stavamo sfidando a colpi di sacre scritture. Dove hai imparato queste cose, Helen? Sulla Bibbia, zia? Ho cercato attentamente e ho trovato quasi 30 passi che supportano questa teoria. È così che usi la Bibbia? E di passi che dimostrino quanto sia rischiosa e falsa questa teoria non ne hai trovati, invece? No, anche se certi passi presi da soli paiono in contraddizione, ma alla fine dimostrano una conclusione diversa da quella che solitamente si considera. È una difficoltà legata al termine sempiterno o eterno, e anche se non conosco il greco, ho capito che il significato originario è che dura per secoli, cioè una cosa infinita, oppure semplicemente lunga. Sì, certo, mi rendo conto che sia una teoria pericolosa, e infatti non mi sognerei di divulgarla con il rischio che qualcuno possa abusarne e andare incontro alla propria distruzione, ma è un pensiero che mi dà sollievo e non me ne voglio separare. A quel punto ci siamo interrotte, poiché era tempo di andare a prepararci per la messa. La mattina siamo andati tutti, a parte lo zio che non viene mai, e il signor Wilmot che si è trattenuto con lui a giocare a carte. Di pomeriggio ci siamo tornati, questa volta senza la signorina Wilmot e Lord Loborough, al che è stato il signor Huntington a offrirsi di accompagnarci. Non so se l'abbia fatto per compiacere me o la zia, ma certo in questo caso si sarebbe potuto comportare meglio. Il suo contegno a messa non mi è piaciuto. Teneva il libro delle preghiere al contrario, oppure aperto su un passo a caso, che non era mai quello giusto. O si guardava sempre attorno, tranne quando si accorgeva che io e la zia lo potevamo vedere, e allora abbassava gli occhi sul libro con un'aria solenne e ironica che avrei trovato anche divertente se non fosse stata al tempo stesso tanto irriverente. Durante la predica del signor Layton, dopo averlo osservato a lungo, ha tirato fuori la sua scatola d'oro delle matite e ha preso la Bibbia. Si è accorto che l'avevo notato e mi ha detto di voler prendere appunti, ma essendogli seduto accanto ho potuto vedere che invece ha iniziato a disegnare una caricatura del nostro pastore, tratteggiando quel bravo signore devoto come un vecchio arcigno. Del resto, tornando verso casa, ha commentato la predica con la zia con tale cognizione da portarmi a credere che l'avesse in effetti seguita. Prima di cena lo zio mi ha convocato in biblioteca per parlarmi di una faccenda importante che si è risolta in due parole. Allora, Nell, ha esordito, questo giovane Huntington chiede la tua mano. Cosa devo dire? La zia per il no. Ma tu cosa ne pensi? Oh, il mio è un sì, zio, ho risposto senza esitare, tanto ero ormai certa della mia decisione. Ottimo, ha esclamato. Che bella risposta schietta per venire da una ragazza tanto giovane. Domani stesso scriverò a tuo padre, che di sicuro darà il suo consenso e puoi considerare la faccenda chiusa. Sarebbe stato meglio se avessi scelto Wilmot, credimi, ma alla tua età è l'amore a farla da padrone, alla mia il più concreto oro. E tu immagino non sia interessata a verificare la solidità delle finanze di tuo marito, giusto? Non lo farei, no. E allora ringrazia il cielo di avere alle tue spalle chi lo fa per te. Non ho ancora avuto modo di esaminare con calma gli affari di questa giovane canaglia, ma dal poco che ho visto ho capito che i beni di suo padre sono stati già in parte dissipati. Tuttavia è rimasto ancora qualcosa, se sarete assennati, vi basterà. Dobbiamo persuadere tuo padre a darti una dote generosa, dato che oltre a te deve occuparsi solo di un'altra persona. E se farai la brava, potrei io stesso ricordarti nel mio testamento, ha concluso strizzandomi l'occhio. Grazie, zio, per questo e per la tua gentilezza, ho risposto. Ho anche parlato con il tuo giovane corteggiatore delle questioni economiche e mi è sembrato disponibile a una discreta generosità. Ma certamente, ho detto a quel punto. Per favore, però, non darti pena e non darne a lui o a me su questo aspetto. Tutto quel che io possiedo sarà suo e quel che lui possiede sarà mio. Non possiamo desiderare di meglio. Stavo per lasciare la stanza, ma mi ha richiamata. Aspetta, ha gridato. Non abbiamo parlato della data. Quando volete che sia. Tua zia lo rimanderebbe all'infinito, ma lui non vede l'ora e non vorrebbe che si andasse oltre il prossimo mese. Immagino che per te sia la stessa cosa. Al contrario, zio, preferirei aspettare invece, almeno fino a dopo Natale. Ma a chi vuoi darla a bere? Figuriamoci, ha risposto incredulo. Tuttavia, è così. Non ho fretta. E come potrei averne se penso a quanto è grande il cambiamento che mi aspetta, a quel che dovrò lasciare? Sono felice abbastanza al pensiero che saremo presto sposati, che lui mi ama e io posso amarlo con la stessa devozione e pensare a lui quanto voglio. Ma sulla data ho insistito per avere un confronto con la zia. Non volevo ignorare del tutto i suoi consigli. In merito a questo dettaglio ancora non siamo arrivati a una decisione. Capitolo 21. 1 ottobre. Adesso è tutto deciso. Mio padre ha dato il suo consenso e abbiamo fissato la data per Natale. Un compromesso tra chi aveva premura e chi preferiva allungare i tempi. Le mie damigelle saranno Millicent Hargrave e Annabella Wilmot. Sebbene non abbia particolare simpatia per lei, ma in fondo è intima della famiglia e io non ho altre amiche. Quando ho detto a Millicent del fidanzamento, la sua reazione mi è molto seccata. Mi ha guardato stupita per un istante e poi ha detto: Helen, so che dovrei congratularmi e davvero mi fa piacere vedervi tanto felice, ma credetemi, non avrei mai pensato che l'avreste accettato. Mi stupisce anzi il fatto che vi piaccia così tanto. Perché? Perché siete talmente superiore a lui in ogni cosa? E perché lui è così impertinente, sregolato, e io, non so, sento sempre il bisogno di allontanarmi quando lo vedo arrivare. Oh, dipende dal fatto che siete timida, Millicent, e questo non certo per colpa sua. E poi anche per come è fatto. Si dice che sia bello, e in effetti capisco che è così, ma di una bellezza che a me personalmente non piace, e mi meraviglia che possa piacere a voi. E perché mai? Perché non c'è niente nel suo aspetto che sia nobile. Quindi vi stupisce che possa piacermi un uomo così diverso dai grandi eroi dei romanzi? Ebbene, davanti al mio amato in carne e ossa, lascerei volentieri a voi tutti i Sir Herbert e i Valentini, sempre che riusciate a trovarli. Ma non li vorrei, mi ha detto. Anche io sarei contenta di un uomo in carne e ossa, ma vorrei che avesse uno spirito tanto luminoso che anche da fuori lo si potesse vedere. Non trovate che il signor Huntington abbia una faccia troppo rossa? No, sono scattata io. Niente affatto. Il suo non è che un colorito sano, fresco. Una carnagione rosata, accesa da una sfumatura più calda sulle guance, esattamente come dovrebbe essere. Certo, non mi piacerebbe un uomo bianco e rosso come una bambola, né tutto pallido o grigio fumo o giallo come un morto. I gusti non si discutono, certo, ma io lo preferisco chiarissimo oppure scuro, ha risposto. Comunque, a essere sincera, speravo che voi sareste stata mia sorella, che vi fosse presentato Walter alla prossima stagione, che sono sicura vi sarebbe piaciuto. E che voi sareste piaciute a lui, e mi beavo nell'illusione di vedere insieme le due persone a cui voglio più bene, oltre mia madre. Magari non lo si definirebbe un bel ragazzo, ma ha un'aria più dignitosa e simpatica del signor Huntington. Se lo conosceste, sareste d'accordo con me. È impossibile, Millicent. Dite così perché siete sua sorella e vi perdono, ma non permetterò a nessun altro di screditare Arthur Huntington in mia presenza. La signorina Wilmot ha commentato la questione in maniera altrettanto diretta. E quindi, Helen, mi ha detto rivolgendomi un sorriso malizioso, presto sarete la signora Huntington. Sì, ho risposto io. Siete gelosa? Oh no, ha detto. Probabilmente un giorno diventerò la signora Loborough e allora sarò io a chiedervi se siete gelosa di me. Oh, non potrei più essere gelosa di nessuno. Ah, siete davvero così felici allora? Mi ha domandato incupendosi. E anche lui vi ama? Vi idolatra allo stesso modo? Ha chiesto fissandomi senza saper nascondere una certa ansia per la mia risposta. Oh, io non voglio essere idolatrata, ho detto, ma sono certa che mi ami, sì, più di chiunque altro, come io amo lui. Proprio così, ha detto. Vorrei. Cosa? Le ho chiesto io, notando l'espressione vendicativa che aveva negli occhi. Vorrei poter trovare in una persona sola le qualità migliori di ciascuno dei due. Che Lord Lovoraf fosse bello e allegro come Huntington e altrettanto affascinante e spiritoso, oppure che Huntington avesse i beni, i titoli e quel simpatico diritto alla proprietà di famiglia, e che fosse mio, ovviamente. A quel punto voi potreste benissimo tenervi l'altro e a casa mia sareste sempre la benvenuta. Tante grazie, Annabella, ma le cose mi vanno bene così come stanno. Mi piacerebbe che voi foste contenta con il vostro innamorato quanto io lo sono con il mio, le ho risposto. Ed ero sincera perché, sebbene il suo sdegno mi avesse inizialmente seccata, la sua schiettezza mi aveva colpita. Ho capito che stavamo vivendo due situazioni così diverse che potevo permettermi di compatirla e sperare il meglio per lei. Gli amici del signor Huntington non si dimostrarono contenti del nostro matrimonio più di quanto si siano dimostrati i miei, comunque. Stamattina ha ricevuto via posta diverse lettere da parte delle sue conoscenze che ha letto a colazione intrattenendo la comitiva con una serie di smorfie. Poi le ha richiuse e se le messe in tasca, sorridendo, senza commentare. Dopo mangiato, quando tutti si erano raccolti attorno al caminetto e in giro per la stanza, in attesa di dare inizio ciascuno alle proprie attività, è venuto vicino alla mia sedia e sfiorandomi i capelli con il viso, mi ha dato qualche piccolo bacio e mi ha detto all'orecchio: Sei una strega, Helen, lo sai? Per colpa tua i miei amici mi stanno mandando ogni sorta di maledizione. Ho scritto loro per annunciare il lieto evento e non ho ricevuto neppure una parola di congratulazioni, ma solo ingiurie e biasimo. Dicono che non potremo mai più divertirci insieme, che non ci saranno più giorni spensierati né nottate brave, e tutto solo per colpa mia, che per primo abbandono il nostro gruppo, spingendo gli altri a fare lo stesso per disperazione. Io, che come dicono loro, ero la colonna, l'anima del nostro gruppo, e ho tradito la loro fiducia. Oh, se lo desideri, puoi continuare a vederli, gli ho detto allora, colpita di sentirlo tanto dispiaciuto. Non vorrei mettermi tra un uomo o un gruppo di uomini e la loro felicità. Forse posso cavarmela anche senza di te. Per l'amor del cielo, no, ha detto allora, io faccio tutto per amore. E che loro se ne vadano pure dove devono andare, per dirla con educazione. Ma se sapessi quante cose brutte mi dicono, Helen, mi ameresti ancora di più sapendo quello che affronto per te. A quel punto si è tirato fuori di tasca le lettere e io, pensando che volesse mostrarmele, gli ho detto che non volevo vederle. Oh, non ho assolutamente intenzione di fartele vedere, cara, non si addicono di certo a una signora. Però dai un'occhiata qui. Ecco cosa scrive Grimsby tre righe appena, quel cagnaccio rabbioso. E in quel che non dice c'è molto più significato che nelle parole scritte dagli altri. Meno ne dice e più ne pensa. Ed ecco la lettera di Hargrave. Dice di essere arrabbiato con me perché si era innamorato di te, pensa un po', attraverso i racconti di sua sorella. E voleva sposarti, lui, non appena avesse messo la testa a posto. Oh, la cosa mi lusinga, ho detto io. Anche a me, ha risposto, e questa invece la manda Hattersley, dopo aver riempito ogni pagina di insulti, rimproveri e offese di ogni genere. Conclude dicendo che per dispetto si sposerà anche lui, con la prima che gli metterà gli occhi addosso. Come se me ne importasse qualcosa, poi. Comunque, gli ho detto, se smetterai di frequentarli, non credo che alla fine li rimpiangerai, dato che non mi sembra ti abbiano mai fatto del bene. Forse, però ci siamo anche molto divertiti. Sebbene non senza sofferenze, come il nostro Lord Loboraf può testimoniare. Ah, e mentre se la rideva al pensiero delle sciagure di Loboraf, è passato mio zio a dargli una piccola pacca sulla spalla. Coraggio, ragazzo, non ditemi che siete troppo impegnato a tubare con mia nipote per venire a caccia di fagiani. È il 1° di ottobre, il sole è già alto, non piove più, e persino Borham, con un paio di stivali impermeabili, non si fa più scrupoli a venire con noi. Wilmut e io vi batteremo tutti, siamo noi i più vecchi, i migliori del gruppo. Ebbene, oggi vedrete cosa so fare io. Farò fuori i vostri uccellacci solo perché mi tengono lontano da una compagnia migliore di quanto siate voi o loro stessi. Così dicendo, se n'è andato. E quando l'ho rivisto a cena, mi sembrava di non vederlo da un secolo. Come farò senza di lui? In effetti, i tre signori più anziani del gruppo si sono rivelati dei cacciatori migliori dei due più giovani. Il signor Huntington e Lord Loboraf hanno spesso rinunciato alle battute di caccia per accompagnarci nelle nostre passeggiate. Tempi felici che stanno per finire, però, dato che il gruppo si separerà nel giro di 2 settimane. Finalmente iniziavo a divertirmi, ora che Borham e Wilmot hanno smesso di corteggiarmi e la zia di farmi le prediche. ora che non sono più gelosa di Annabella e non l'ho più in antipatia, ora che finalmente il signor Huntington è diventato il mio Arthur e posso stare con lui in libertà. Davvero, cosa farò senza di lui?